Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Emons Audiolibri. Marcel Proust, Il tempo ritrovato, Alla ricerca del tempo perduto, settimo volume, traduzione di Giovanni Raboni, legge Tommaso Ragno. Tutto il giorno, in quella casa un po' troppo campagnola, che non sembrava niente più d'un luogo di siesta fra una passeggiata e l'altra, o durante un acquazzone, una di quelle case dove ogni salotto fa pensare a una pergola e dove, sulla tappezzeria delle camere, in una le rose del giardino, nell'altra gli uccelli degli alberi vi hanno raggiunti e vi fanno compagnia, uno per uno, almeno, perché erano vecchie tappezzerie dove ogni rosa era così separata dall'altra che si sarebbe potuto, se fosse stata viva, coglierla, ogni uccello metterlo in gabbia e addomesticarlo, senza niente di quelle grandi decorazioni delle camere d'oggi, dove su un fondo d'argento tutti i meli di Normandia son venuti a profilarsi in stile giapponese per allucinare le ore che trascorrete a letto. Tutto il giorno lo passavo nella mia camera, che dava sul bel verde del parco e il lillà dell'ingresso, le foglie verdi dei grandi alberi in riva all'acqua, scintillanti di sole, e la foresta di Meseglise. Tutte queste cose, in fondo, le guardavo con piacere, solo perché mi dicevo: è bello vedere tanto verde dalla finestra della mia camera. Fino al momento in cui, nel vasto quadro verdeggiante, non riconobbi, dipinto invece, lui, d'azzurro cupo, per la semplice ragione che era più lontano, il campanile della chiesa di Combré. Non una raffigurazione di quel campanile, proprio il campanile, che, mettendomi in tal modo sotto gli occhi la distanza dei luoghi e degli anni, era venuto, in mezzo al verde luminoso e in un tono affatto diverso, talmente scuro, che sembrava quasi soltanto disegnato a inscriversi nel riquadro della finestra. E bastava che uscissi un momento dalla camera per scorgere in fondo al corridoio, orientato diversamente, la striscia scarlatta della tappezzeria d'un salottino, una semplice mussolina, ma rossa e pronta a incendiarsi se vi batteva un raggio di sole. Durante quelle passeggiate, Gilbert mi parlava di Robert, come se stesse allontanandosi da lei, ma per correre dietro ad altre donne. Ed è vero che la sua vita ne era piena, come di certe compagnie maschili la vita degli uomini a cui piacciono le donne, con quel carattere di difesa vana e di posto inutilmente usurpato che hanno, nella maggior parte delle case, gli oggetti che non servono a niente. A Tansonville venne, mentre ero là, parecchie volte. Era molto diverso da come l'avevo conosciuto. La sua vita non l'aveva ingrossato, rallentato come il signor di Charlus, ma al contrario, operando in lui un mutamento inverso, gli aveva dato l'aspetto disinvolto d'un ufficiale di cavalleria, sebbene, al momento di sposarsi, si fosse messo in congedo, come mai l'aveva avuto. A mano che Charlus s'appesantiva, Robert, che era certo infinitamente più giovane, ma si sentiva che con l'età non avrebbe fatto che avvicinarsi ulteriormente a quell'ideale, come certe donne che sacrificano risolutamente il viso alla figura e da un certo punto in poi non si muovono più da Marienbad, pensando che se non è possibile conservare più giovinezze insieme, quella della linea sarà comunque la più adatta a rappresentare le altre. S'era fatto più slanciato, più rapido, effetto opposto d'un medesimo vizio. Questa velocità aveva, del resto, varie ragioni psicologiche. Il timore d'esser visto, il desiderio di non lasciar trasparire tale timore, l'agitazione febbrile che nasce dalla scontentezza di sé e dalla noia. Aveva l'abitudine d'andare in certi postacci, nei quali, poiché preferiva che non lo si vedesse né entrare né uscire, si precipitava, non diversamente da come ci si lancia all'attacco, per offrire la minor superficie possibile agli sguardi malevoli di ipotetici passanti. E quell'andatura, da colpo di vento, gli era rimasta. Essa, forse, schematizzava anche l'apparente intrepidezza di chi vuol mostrare che non ha paura e non vuol concedersi il tempo di riflettere. Bisognerebbe, per completezza, prendere in considerazione il desiderio, via via che invecchiava, di apparire giovane, e anche l'impazienza di quelle creature sempre annoiate, sempre disincantate, che sono le persone troppo intelligenti per la vita relativamente oziosa che conducono, nella quale le loro facoltà restano irrealizzate. È probabile che l'ozio stesso possa manifestarsi in costoro come disinvoltura, ma soprattutto da quando gli esercizi fisici godono di tanto favore, l'ozio ha preso, anche al di fuori delle ore di sport, una forma sportiva che si traduce non più in indifferenza, ma in una vivacità febbrile che crede di non lasciare alla noia né il tempo né lo spazio per svilupparsi. La mia memoria, persino la memoria involontaria, aveva perduto l'amore di Albertine, ma sembra che vi sia, pallida e sterile imitazione dell'altra, una memoria involontaria delle membra, la quale vive più a lungo, come certi animali o vegetali privi di intelligenza vivono più a lungo dell'uomo. Le gambe, le braccia, sono piene di ricordi in letargo. Una volta che m'ero congedato da Gilbert piuttosto presto, mi svegliai in piena notte nella camera di Tansonville e ancora mezzo addormentato chiamai Albertine. Non che avessi pensato a lei, né sognato di lei, né che la scambiassi con Gilbert. Una reminiscenza sbocciata nel mio braccio m'aveva fatto cercare il campanello dietro di me, come nella mia camera di Parigi, e non trovandolo avevo chiamato Albertine, credendo che la mia amica, defunta, si fosse messa a letto accanto a me, come faceva spesso la sera, e ci fossimo addormentati insieme, contando al risveglio sul tempo che Françoise ci avrebbe messo ad arrivare perché Albertine potesse, senza imprudenza, tirare il campanello che io non riuscivo a trovare. Diventato, almeno durante questa fase incresciosa, molto più brusco, Robert non dava quasi più prova di sensibilità nei confronti degli amici, per esempio nei miei. In compenso, aveva con Gilbert delle affettazioni di sensibilismo, spinte fino alla commedia, che indisponevano. Non che Gilbert in realtà gli fosse indifferente, anzi, la amava, ma le mentiva di continuo. La sua doppiezza, se non il fondo delle sue menzogne, era perennemente allo scoperto, e gli sembrava, dunque, di non potersela cavare se non esagerando in proporzioni ridicole la reale tristezza che gli veniva dal far soffrire Gilbert. Arrivava a Tansonville costretto, diceva, a ripartire la mattina dopo per un certo affare con un signore del paese che, secondo lui, lo aspettava a Parigi e che, incontrato per l'appunto in serata vicino a Combray, rivelava senza volerlo la menzogna di cui Robert non si era curato di metterlo al corrente, dichiarando d'essere venuto lì a riposarsi e di non voler tornare a Parigi prima d'un mese. Robert arrossiva, vedeva il sorriso malinconico e fiero di Gilbert, si sbarazzava del gaffeur insultandolo, tornava a casa prima della moglie, le faceva avere un biglietto in cui diceva d'aver mentito per non darle un dispiacere, perché lei, vedendolo ripartire per una ragione che non poteva dirle, non credesse che non l'amava, e tutto ciò, sebbene lo scrivesse come una menzogna, era in fin dei conti vero. Dopodiché le faceva chiedere se poteva andare in camera da lei, e là, un po' tristezza vera, un po' snervamento di quella vita, un po' simulazione ogni giorno più audace. Scoppiava in singhiozzi, si inondava d'acqua fredda, parlava della propria morte vicina, a volte crollava sul pavimento come in preda a un malore. Gilbert non sapeva fino a che punto dovesse credergli. Supponeva che Robert mentisse in ogni caso particolare, ma che in linea generale la amasse. E si preoccupava, pensando che fosse effetto di una malattia che lei ignorava, di quel presentimento d'una morte vicina, e così non osava contrariarlo, chiedendogli di rinunciare ai suoi viaggi. Tanto meno, del resto, capivo perché ne facesse, visto che Morel era ricevuto insieme a Bergotte come uno di famiglia ovunque fossero i Saint-Loup, a Parigi, come a Tansonville. Morel imitava Bergotte a meraviglia. In breve tempo non ci fu più nemmeno bisogno di chiedergli che lo imitasse, come gli isterici che non occorre più addormentare perché si trasformino in questa o quella persona. Entrava nel personaggio da solo e in un sol colpo. Françoise, che dopo aver visto tutto ciò che il signor di Charlus aveva fatto per Jupien, vedeva tutto ciò che Robert de Saint-Loup faceva per Morel, non ne concludeva che fosse una caratteristica ricorrente nei Guermont a distanza di generazioni, ma, visto che anche Le Grandin aiutava molto Théodore, aveva finito col credere, lei, persona tanto morale e con tanti pregiudizi, che si trattasse di un'usanza resa rispettabile dalla sua universalità. D'un giovane, si trattasse di Morello o di Théodore, diceva sempre: ha trovato un signore che si è sempre interessato a lui e lo ha tanto aiutato. E siccome in tal caso i protettori sono quelli che amano, che soffrono, che perdonano, Françoise non esitava, fra loro e i minorenni che sviavano, a dare a loro il ruolo più nobile, a trovare che avevano tanto cuore. Biasimava senza esitazioni Théodore, che ne aveva fatte di tutti i colori alle Grandon. Eppure mostrava d'avere ben pochi dubbi sui loro rapporti, dal momento che aggiungeva: allora il ragazzo ha capito che doveva pur metterci qualcosa di suo e gli ha detto: prendetemi con voi, vi vorrò bene, vi coccolerò. E il signore, parola mia, ha così tanto cuore, che di sicuro Théodore è sicuro di trovare vicino a lui forse più di quel che merita, perché è una testa matta, quello lì. Ma il signore è così buono che io glielo dico sempre a Jeannette, la fidanzata di Théodore: ragazza mia, se mai vi trovate nei guai, andate da quel signore. Si metterebbe a dormire per terra piuttosto e vi darebbe il suo letto. Gli ha voluto troppo bene al ragazzo Théodore, per cacciarlo fuori. C'è da scommettere che non lo abbandonerà mai. Per cortesia, chiesi a sua sorella quale fosse il cognome di Theodore, che adesso viveva nel Mezzogiorno. «Ma è stato lui a scrivermi per il mio articolo sul Figaro», esclamai quando seppi che si chiamava Sotton.